Al-Hashr, l'Esodo. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Glorifica Allah ciò che è nei cieli e ciò che è sulla terra. Egli è eccelso, saggio. أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Egli è colui che ha fatto uscire dalle loro dimore in occasione del primo esodo quelli fra la gente della scrittura che erano miscredenti. Voi non pensavate che sarebbero usciti, e loro credevano che le loro fortezze li avrebbero difesi contro Allah. Ma Allah li raggiunse da dove non se lo aspettavano e gettò il terrore nei loro cuori. Demolirono le loro case con le loro mani e con il concorso delle mani dei credenti. Traetene dunque una lezione, o voi che avete occhi per vedere. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. E se Allah non avesse decretato il loro bando, li avrebbe certamente castigati in questa vita. Nell'altra vita avranno il castigo del fuoco. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق Poiché si opposero ad Allah e al suo inviato. E quanto a chi si oppone ad Allah, invero Allah è severo nel castigo. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. Tutte le palme che abbatteste e quelle che lasciaste ritte sulle loro radici, fu con il permesso di Allah, affinché egli copra gli empi di ignominia. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. Il bottino che Allah concesse spetta al suo inviato. Non faceste correre per conquistarlo né cavalli né cammelli. Allah fa trionfare i suoi inviati su chi vuole, e Allah è onnipotente. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا Il bottino che Allah concesse al suo inviato sugli abitanti delle città appartiene ad Allah e al suo inviato, ai suoi familiari, agli orfani, ai poveri e al viandante diseredato, così che non sia diviso tra i ricchi fra di voi. Prendete quello che il messaggero vi dà, e astenetevi da quel che vi nega, e temete Allah. In verità Allah è severo nel castigo. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Appartiene inoltre agli emigrati bisognosi che sono stati scacciati dalle loro case e dai loro beni, poiché bramavano la grazia e il compiacimento di Allah, ausiliari di Allah e del suo inviato. Essi sono i sinceri. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. E appartiene a quanti prima di loro abitavano il paese e vivevano nella fede, che amano quelli che emigrarono presso di loro e non provano in cuore invidia alcuna per ciò che hanno ricevuto e che li preferiscono a loro stessi, nonostante siano nel bisogno. Coloro che si preservano dalla loro stessa avidità, questi avranno successo. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Coloro che verranno dopo di loro diranno: Signore, perdona a noi i nostri fratelli che ci hanno preceduto nella fede, e non porre nei nostri cuori alcun rancore verso i credenti. Signor nostro, tu sei dolce e misericordioso. Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abadan wa in qutiltum la لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. Non hai visto gli ipocriti mentre dicevano ai loro alleati miscredenti fra la gente della scrittura: se sarete scacciati, verremo con voi e rifiuteremo di obbedire a chiunque contro di voi? Se sarete attaccati, vi porteremo soccorso? Allah è testimone che in verità sono bugiardi. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yuwallunna al-adbara thumma la yunsarun. Se verranno scacciati, essi non partiranno con loro, mentre se saranno attaccati non li soccorreranno. E quando anche portassero loro soccorso, certamente volgerebbero le spalle e quindi non li aiuterebbero affatto. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. Voi mettete nei loro cuori più terrore che Allah stesso, poiché in vero è gente che non capisce. La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Vi combatteranno uniti solo dalle loro fortezze o dietro alle mura. Grande l'acrimonia che regna tra loro. Li ritieni uniti. Invece i loro cuori sono discordi. È gente che non ragiona. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. Sono simili a coloro che di poco li precedettero. Subirono le conseguenze del loro comportamento. Riceveranno doloroso castigo. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Furono traditi come quando Satana disse all'uomo: non credere. Ma quando questo fu miscredente gli disse: ti sconfesso, io temo Allah, il Signore dei mondi. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. La fine di entrambi sarà nel fuoco in cui rimarranno in perpetuo. Ecco il compenso degli ingiusti. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. O voi che credete, temete Allah e che ognuno rifletta su ciò che avrà preparato per l'indomani. Temete Allah, in verità Allah è ben informato di quello che fate. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Non siate come coloro che dimenticano Allah e cui Allah fece dimenticare se stessi. Questi sono i malvagi. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Non saranno uguali i compagni del fuoco e i compagni del giardino. I compagni del giardino avranno la beatitudine. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Se avessimo fatto scendere questo Corano su una montagna, l'avresti vista umiliarsi e spaccarsi per il timor di Allah. Ecco gli esempi che proponiamo agli uomini affinché riflettano. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Egli è Allah, colui all'infuori del quale non c'è altro Dio, il conoscitore dell'invisibile e del palese. Egli è il compassionevole, il misericordioso. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Egli è Allah, colui all'infuori del quale non c'è altro Dio. Il Re, il Santo, la Pace, il Fedele, il Custode, l'Eccelso, colui che costringe al suo volere, colui che è cosciente della sua grandezza. Gloria ad Allah, ben al di là di quanto gli associano. Huwa Allahu al-Khaliqu al-Bari'u al-Musawwir. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Egli è Allah, il creatore, colui che dà inizio a tutte le cose, colui che dà forma a tutte le cose. A lui appartengono i nomi più belli. Tutto ciò che è nei cieli e sulla terra rende gloria a lui. Egli è l'eccelso, il saggio.